in primo piano. Buongiorno, buon lunedì, ultimo lunedì di agosto da Giulia Crivelli, ben ritrovati sulle pagine dei prime pagine dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore. Avete sentito i due approfondimenti importanti: da una parte tutte le scadenze, gli obblighi, purtroppo si tratta appunto soprattutto di scadenze e obblighi che ci attendono adesso al rientro dalle vacanze, fisco, scuole e pensioni. Trovate tutto da pagina 2 a pagina 5, diviso per imprese, professionisti e famiglie. Avete sentito anche dell'esperto risponde, con un focus su chi ha avuto dei cosa fare per chi ha avuto dei disagi in vacanza, ma vi segnalo altri due approfondimenti molto interessanti che poi vedremo. Da una parte l'infodata, cioè la pagina che ogni lunedì viene dedicata a questa infografica studiata. Noi abbiamo un piccolo team interno che fa proprio questo, e quella di questa settimana secondo me è stupenda, è dedicata tutta all'università, per capire sia con un articolo di Michela Finizio sia con questa appunto infografica, che è molto più di una tabella, è molto più di un grafico, e c'è dietro, vi assicuro, un lavoro molto più lungo. Il titolo è: tra le lauree italiane calano gli architetti, salgano gli economisti. E un altro interessante approfondimento lo trovate poi a pagina 9 di Francesca Barbieri, ed è il welfare aziendale che si fa spazio in un contratto su tre. Sul Sole 24 Ore, forse qualcuno di voi l'ha visto settimana scorsa, ogni giorno nella pagina del lavoro c'era un approfondimento sui contratti cosiddetti, sulla contrattazione di secondo livello, che include sempre più spesso questo tipo di benefit, cioè il welfare aziendale, che tra l'altro una volta veniva inteso molto semplicemente magari come aiuti alla genitorialità. Adesso sempre più aziende, visto la situazione demografica che sta cambiando e anche sociale, l'organizzazione sociale che sta cambiando in Italia e non solo, introducono per esempio degli aiuti, delle agevolazioni ai lavoratori che si occupano dei genitori o comunque dei parenti anziani, e che quindi hanno diritto spesso o possono chiedere part-time permessi, proprio come si fa scusate, sto leggendo un messaggio che è meglio che io prenda a sorridere. Proprio come si fa appunto per aiutare le persone che devono conciliare il lavoro con la cura della casa, della famiglia, dei figli. La prima pagina del Corriere della Sera invece si concentra sull'incontro che ci sarà oggi a Parigi tra il nostro primo ministro e la cancelliera Angela Merkel e il presidente francese, intesa sui migranti, centri in Libia, aiuti economici, i leader a Parigi, ecco il testo. E con spazio alle dichiarazioni molto favorevoli che finalmente Angela Merkel ha fatto su come l'Italia si è comportata si sta comportando nella gestione dell'emergenza dei migranti, che è un'emergenza europea, non italiana. Ci fermiamo un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o WhatsApp o SMS. E a chi chiede di Alessandro, ci siamo quasi, un ascoltatore lo chiama aspettando Alessandro il Grande. Alessandro torna lunedì prossimo, spostandosi leggermente in avanti come fascia oraria, però appunto lunedì lo ritroverete. La prima pagina della Repubblica ha un titolo molto simile a quello del Corriere: Migranti e Libia, la svolta dell'Europa. L'editoriale del direttore di Repubblica, l'antidoto alla parola, l'antidoto, scusatemi, alla paura. La fotonotizia è dedicata a Lady Diana, perché con qualche giorno di anticipo si ricordano i 20 anni esatti dalla morte in un incidente d'auto a Parigi di Lady Diana Spencer, che all'epoca appunto non era già più la principessa del Galles, perché aveva divorziato da Carlo, era diventata semplicemente appunto Lady Diana Spencer, quella morte tragica che ha fatto risorgere la corona. Due pagine, 14 e 15, di Enrico Franceschini. La Stampa ha un'apertura ancora diversa, seguendo un po' questa tendenza che ha la Stampa da parecchio tempo, di concentrarsi, quando le ha, e spesso le ha, su inchieste interne. E quindi da una parte pagina 2 e pagina 3 si focalizza sull'università, la ribellione dei prof universitari, bloccati gli esami. Da oggi stop agli appelli in 79 Atenei, è una proposta contro il blocco dei salari. E poi altra inchiesta alla stampa, pagina 12 e 13, sulle partecipate, che vengono definite una giungla. Ed ecco tutti gli sprechi, con ancora una volta purtroppo numeri, senz'altro abbiamo evocato Alessandro, da Mani sul volante. E sicuramente leggerli ancora sempre così, anche in questo caso presentati graficamente in un modo che lascia subito, appena si dà un'occhiata alle pagine, lascia storditi, appunto Mani sul volante, non dico altro. La fotonotizia però, ancora un'altra inchiesta della stampa, pagina 10 e 11, due giornalisti della stampa hanno fatto un viaggio nel Midwest, cioè in quella fascia degli Stati Uniti di cui non si parla tanto. Si dice che in molti di questi stati ci fossero i sostenitori più forti di Donald Trump, quella classe media fortissimamente impoverita dalla crisi economica. E il titolo: fra i minatori traditi da Trump. La foto è molto bella, è un minatore con sullo sfondo un paesaggio abbastanza desertico. Anche la classe media ha paura dei robot, perché anche nell'industria mineraria, come in tantissime altre industrie, naturalmente c'è la minaccia che l'introduzione delle fabbriche sempre più automatizzate, o meglio, la crescita di fabbriche sempre più automatizzate, ovviamente abbia un impatto sul lavoro delle persone. Il Messaggero: sgomberi, il Viminale accelera. Quindi si torna sulla questione degli sgomberi. Sapete che quello di Piazza Indipendenza è stato deciso perché il ministro degli interni Marco Minniti ha diffuso una circolare in cui si autorizzava questo intervento. Ora abbiamo scoperto, grazie a questo fatto di cronaca, scoperto nel senso forse riscoperto, comunque ci hanno dato i numeri anche in questo caso degli edifici occupati a Roma abusivamente e in tutta Italia, e quindi la possibilità che ci siano, che questo sia il primo di tanti sgomberi. L'intervista al sindaco di Firenze Dario Nardella, che oltre a essere molto vicino all'ex premier Matteo Renzi, attuale segretario del PD, è anche appunto sindaco di centrosinistra, che dice: chi occupa non deve mai essere premiato. E l'intervista poi l'ho trovata a pagina 3. Un intervento di Gianandrea Gaiani sulla questione della Libia. E gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene la voce di Gianandrea Gaiani. La chiusura della rotta libica, successo nato dalla fermezza. Una notizia che ha solo il Messaggero, ma che ci riguarda tutti, e perché sappiamo che la pubblica amministrazione è il primo datore di lavoro italiano, e quindi spesso noi tra l'altro abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione e con tutti i disservizi. Abbiamo letto per esempio dell'astensionismo record all'interno dell'ATAC, l'azienda dei trasporti pubblici romana, che è tecnicamente già fallita. Stretta sulle visite fiscali, nuove fasce orarie e controlli ripetuti per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Da settembre tutte le verifiche all'INPS, novità per gli statali, il nodo dei medici. Tutto spiegato a pagina 7. Libero si concentra su un fatto di cronaca orribile, e sono d'accordo con i commenti di chi dice che di questo fatto di cronaca si è parlato tutto sommato poco, nei telegiornali con un pochino di reticenza, come se ci fosse quasi una deriva di politically correct, per non dire che questi quattro stupratori, che in realtà sono stati protagonisti di un episodio che, così come lo conosciamo dai racconti fino adesso, è davvero da Arancia Meccanica. Forse se ne è parlato troppo poco, tant'è che non c'è su nessuna delle prime pagine che vi ho nominato finora. Libero invece titola: se gli stupratori sono immigrati vengono difesi. Giornali e TV nascondono che la polizia sta cercando quattro magrebini per aver abusato di una turista. Vogliono farci credere che la società multietnica sia perfetta. Invece finirà per esplodere. Forse questa è un'interpretazione esagerata dall'altro lato, però è vero che anch'io mi aspettavo molto più spazio a questa notizia, e molto più spazio soprattutto sulle prime pagine. Un articolo, non so, tra lo sgradevole, non lo trovo ironico a sufficienza, ma mi scopro sempre ad avere questa reazione quando si gioca sulla presunta bellezza o bruttezza di una donna. anche se lo scrive una donna, anzi forse ancora di più mi colpisce. L'articolo poi l'ho trovato a pagina 17, è intitolato testuale "Così la cozza Littizzetto riduce Fazio a Valletto", c'è anche una bella rima, "la petulante di successo". Il giornale, ordine dei giudici, prima i migranti, poi la proprietà. Questo fa riferimento non alla vicenda di Rimini, ma sullo sgombero di Roma, perché adesso bisogna vedere come procederà il trasferimento o comunque la necessità di trovare una casa a chi è stato obbligato a lasciare l'edificio occupato abusivamente. L'ordine dei giudici, appunto, le toghe, quelle che il giornale definisce le toghe rosse, proteggono gli abusivi. E da qui, per questo vi segnalavo con particolare attenzione l'intervista a Dario Nardella, che invece dice chi non rispetta le regole va sempre punito. E in prima pagina la fotonotizia è dedicata a Macron, perché come vedremo anche su altri giornali, Macron, che un po' per questa sua personalità, molto da definizione dei giornali francesi, da nuovo Napoleone, un po' perché sta cercando di introdurre delle riforme molto difficili da far digerire, come quelle riforme strutturali che la Francia, così come l'Italia e altri paesi, aspettavano da tempo, in primis quella sul lavoro, e quindi il crollo di popolarità. Non era mai successo che in poco più di 100 giorni ci fosse un crollo di popolarità, che adesso si attesta a 24 punti. L'editoriale di Alessandro Sallusti, che è direttore del giornale, è proprio invece dedicato allo stupro di Rimini. Vietato dire che i ricercati sono stranieri. Siccome Sallusti nomina anche Roberto Saviano, e qui scusate, mi viene da ridere, perché domenica dentro di me dicevo: ma che strano, come mai non è un po' che Saviano non scrive, non si esibisce nelle sue virtù di tuttologo? E in inglese c'è un detto bellissimo che è "be careful what you wish for because you might get it", attenzione a quello che auspichi, che speri, che pensi possa succedere, perché poi magari succede per davvero. E infatti domenica Saviano su Repubblica TV ha spiegato quali sono le 10 fake news sugli immigrati secondo lui. Naturalmente subito ha prestato il fianco alla critica. Da qui, allora, da una parte l'editoriale di Sallusti, che lo cita perché come sempre non si perde occasione poi per attaccare o Saviano, a volte senza ironia, io spero di farlo con un pizzico di ironia e spero sempre che anche lui un giorno sviluppi un po' di autoironia, ma in ogni caso scrive Sallusti: "è il maledetto virus con cui le Boldrini, il virus appunto del buonismo, del politically correct, e i Saviano hanno infettato il paese, un razzismo all'incontrario, tutelato perfino dall'ordine dei giornalisti che indaga e punisce i colleghi che osano vaccinarsi, cioè chiamando le cose con il proprio nome". E quindi in prima pagina c'è anche questa esibizione su Repubblica TV di Roberto Saviano, che ha spiegato quali sono secondo lui le 10 fake news sugli immigrati. E quindi "bugie su sbarchi e accoglienza, ecco le 10 fake news di Saviano. Lo scrittore Roberto Saviano ha diffuso sui social il dialogo delle 10 bufale sui migranti, eccole smontate una per una". Trovate tutto a pagina 5. Anche l'operazione del giornale non è completamente in buona fede, ci sono delle cose che vengono liquidate con un po' troppo leggerezza, però per esempio Roberto Saviano sostiene che i migranti non ricevono 35 euro al giorno dallo Stato, ma invece è così. Poi sostiene che le COP non hanno legami con la mafia, i migranti non fanno la bella vita negli hotel di lusso, questo sicuramente. Definire bella vita la vita di una persona che comunque ha dovuto lasciare il suo paese, no, non sono d'accordo, quindi non la trovo una fake news. "I migranti non sono un costo troppo alto per il sistema italiano", sono un costo alto però, troppo poco, questo è. "I migranti non portano malattie". Purtroppo invece ci sono, a volte vengono da paesi dove esistono ancora delle malattie che qui per fortuna abbiamo debellato, e avanti così, cioè, ma dove si va con questo scontro a forza di slogan? Vabbè. Il Fatto Quotidiano invece è un'apertura ancora diversa: "evasori, controlli dimezzati, il il Fatto Quotidiano è andato a spulciare i risultati delle indagini finanziarie e da 1,2 miliardi si è passati a 178 milioni. Il secolo XIX ve lo segnalo perché ha una notizia molto interessante sulla Cina. Sappiamo che la Cina, oltre a tutto quello che è successo settimana scorsa, il possibile interesse di un grande gruppo cinese per avere una quota di partecipazione in FCA o addirittura per comprare un marchio di Fiat Chrysler Automobiles che è Jeep, poi sappiamo quanti altri investimenti hanno fatto in Europa i cinesi e in Africa naturalmente, sappiamo che il governo cinese vuole una stretta su alcuni tipi di investimenti che gli imprenditori cinesi stanno facendo, in particolare quelli nel calcio. Ecco, interessante l'articolo di Simone Gallotti perché parla invece degli investimenti nelle crociere e nella nautica. La Cina cresce meno del previsto, i big delle crociere cambiano strategie. E da qui quindi la conclusione, il dato che nel 2018 la presenza in Cina dei grandi gruppi sarà piatta, secondo una ricerca di Wells Fargo. La Cina non ha smesso quindi di essere la terra delle opportunità delle crociere, è una scommessa a lungo termine, sostengono i manager dei gruppi principali del settore. Un angolo diverso per affrontare comunque questo problema dei nuovi equilibri economici internazionali. Ci lasciamo per una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e prima di tutto una precisazione importante perché a volte leggendo i titoli si cade e veramente vorrei non farlo, vorrei riuscire a non farlo nella disinformazione. Hanno ragione gli ascoltatori che dicono, precisiamo, non è che i migranti ricevono 35 euro, ogni migrante costa allo Stato 35 euro perché questi 35 euro vanno alla ONG, all'albergatore che li ospita, però spieghiamo bene che poi c'è il costo, quindi il costo giornaliero del mantenimento sono i 35 euro. E viene stabilito dai singoli bandi, potrebbe in futuro essere alzata o diminuita. Poi ci sono 2,5 euro giornalieri che vanno direttamente al clandestino e una scheda di 15 euro all'arrivo. Questo è il dato esatto. Ma torniamo sulle prime pagine dei giornali e spero appunto di aver fatto un po' di chiarezza. Il giorno ha in prima pagina, come titolo di prima pagina, lo stupro di Rimini. Caccia al branco, la ragazza stuprata sulla spiaggia di Rimini, ricordo quelle belve, potrei riconoscerle. Ma la frase shock che mi ha scioccato anche stamattina quando alle 4 qualcosa guardavo su Sky TG24 un'anteprima della rassegna stampa e solo il giorno ha questa notizia perché poi in realtà è un messaggio che è apparso su Facebook ma è stato subito cancellato. L'ha scritto il signor Abid G, che si definisce un mediatore culturale. Ve lo leggo. Lo stupro è un atto, attenzione, è un atto peggio, ma solo all'inizio. Una volta si entra al pisello, poi la donna diventa calma e si gode come un rapporto sessuale normale. Il post è rimasto online soltanto pochi minuti. Io non lo so, no, è meglio che non lo incontri questo signore sulla mia strada, anche se fosse alto 2,5 metri, non lo so, cercherei di sfondarlo tipo Ariete. Comunque la cronaca resta questa, 4 magrebini hanno stordito di botte il marito di una turista, poi hanno violentato più volte a turno questa ragazza, entrambi sono adesso in ospedale, poi hanno proseguito la loro nottata e hanno violentato anche una transessuale che era lì vicino. Tutto questo a Rimini nel cuore della notte. Il Foglio ha una apertura ancora diversa, si intitola L'Italia come una Ferrari, dalla Formula 1 alle strade della California fino al modello Marchionne, perché il cavallino, che è il simbolo della Ferrari, rappresenta quello che nessuno vuole ammettere, l'Italia che ce la fa, indagine sui segreti culturali e industriali di un grande motore del nostro paese. Vi segnalo come sempre alcune prime pagine dei quotidiani, cominciamo dalla Frankfurter Allgemeine. e che è, me lo ricordava perché spesso insomma cerco di confrontarmi anche con i giornalisti che fanno i corrispondenti in Italia, me lo ricordava Tobias Piller, che è appunto il corrispondente in Italia di questo quotidiano tedesco, è un po' l'unico con un respiro internazionale. Sabato ho citato anche la prima pagina della Süddeutsche Zeitung perché un altro ascoltatore aveva detto però non citare soltanto un quotidiano, anche perché la Frankfurt definiva lui un giornale ultraconservatore. Io non credo sia un giornale ultraconservatore, è un giornale con una chiara, un chiaro orientamento conservatore, ma anche secondo me in grado di distinguere bene i fatti dalle opinioni. Una cosa che mi ha colpito dei giornali italiani di oggi è che praticamente non si trovano fotonotizie o reportage dalla ennesima nuova ma giustissima manifestazione a distanza di 10 giorni dagli attentati di Barcellona contro il terrorismo. Ce n'è stata un'altra appunto ed è la fotonotizia della Frankfurt Allgemeine, die Pest Antwort heißt Frieden, la risposta migliore si chiama pace. E poi dalla prima pagina molti altri commenti anche sulla campagna elettorale che vede Angela Merkel avvicinarsi a una vittoria alle prossime elezioni politiche. E poi vi segnalo anche, perché è un tema di cui ci si occupa spesso anche in Italia, all'interno la copertina della sezione di economia, un approfondimento sugli outlet, queste cittadelle dello shopping con sconti molto alti perché in teoria si comprano solo collezioni per quanto riguarda l'abbigliamento delle stagioni precedenti, e c'è naturalmente una differenza di prezzo enorme tra lo stesso marchio in un outlet e nel centro città, e questo bilanciamento a volte è facile, a volte meno, si sta cercando anche perché appunto c'è la comodità di avere un tipo di negozio in città molto vicino, e se vogliamo tra virgolette, ma poi ormai tutti si sono organizzati con navette, con trenini, la scomodità invece di dover fare un viaggio per andare in queste cittadelle dello shopping appunto. La Bild, che è anche questo un quotidiano a diffusione nazionale, anzi forse è il quotidiano più diffuso e più letto d'Europa, credo che la stima sia di 6 milioni di euro, di 6 milioni di lettori, è però un tipo di quotidiano che per esempio in Italia non abbiamo, cioè è proprio un quotidiano popolare, formato tabloid, spesso con donne non nude ma seminude o comunque con le loro grazie molto visibili sulla prima pagina. Oggi per esempio c'è una foto di Heidi Klum e non so se sia stata ritoccata o no, ma sicuramente sembra molto pettoruta, l'ex top model tedesca, poi imprenditrice, poi anche presentatrice di talent. Ma la cosa interessante, parlando delle elezioni politiche, c'è un approfondimento su Schulz. È interessante vedere come Angela Merkel stia, diciamo, non reagendo agli attacchi anche molto persistenti e a volte molto duri del suo rivale Martin Schulz della SPD, che però secondo tutti i sondaggi non ha alcuna chance di battere la cancelliera. È come se lei non volesse entrare nella polemica, anzi fa una sorta di resistenza passiva molto intelligente secondo me, e sicuramente mai vista in Italia, cioè quando lo nomina gli fa i complimenti per le sue posizioni e poi se deve rispondere nel merito di una questione lo fa con molta calma e senza a sua volta insultare, e evidentemente è una tecnica che paga, perché Martin Schulz ha lasciato il suo posto di presidente del Parlamento europeo credendo di avere delle buone chance alle elezioni politiche, e poi dopo i primi sondaggi buoni, favorevoli, confortanti, adesso ci sono tantissimi punti di distanza tra i due. Il Washington Post, come tutti i quotidiani americani, specie i tre a diffusione nazionale, cioè appunto Washington Post, New York Times e USA Today, hanno video, foto, reportage. Le più interessanti sono quelle del prima e del dopo, su quello che sta succedendo in Texas, perché se è vero che è stato, diciamo, declassato da l'uragano Harvey, in realtà sta facendo dei danni che per esempio alcuni abitanti di Houston dicono: abbiamo visto tanti uragani ma non siamo mai stati colpiti da qualcosa di questo genere, soprattutto per la quantità di pioggia che è caduta e che continuerà a cadere secondo i meteorologi per i prossimi 3 o 4 giorni. È anche un banco di prova per il presidente Trump, come tutte le emergenze, perché ricorderete che quando ci fu l'uragano Katrina e il presidente era George Bush, la reazione ancora adesso, tra l'altro la Louisiana, che fu lo stato più colpito, a distanza di così tanti anni non è ancora stata pienamente ricostruita né messa in sicurezza, e fu al centro di molte polemiche. Ora vediamo, tutti un po' avversari ma anche sostenitori stanno osservando come cercherà di reagire il presidente, coordinando soprattutto gli aiuti. Poi tenete presente che, siccome la struttura degli Stati Uniti è veramente federale, c'è un'agenzia federale, la FEMA, che deve intervenire in questi casi, ma molta autonomia è data anche alle autorità statali, quindi ci sarà bisogno di un grande sforzo di coordinamento. Vedremo, tra l'altro per ora non si può neanche dire interveniamo e ricostruiamo, perché l'emergenza non è ancora finita, continua a piovere a dirotto in Texas e in particolare sulla città di Houston, che è la terza o la quarta città degli Stati Uniti. Alla tempesta Harvey, Hurricane, è dedicata anche l'apertura di Le Figaro. E poi però anche un approfondimento su Angela Merkel, che continua a difendere la scelta fatta anni fa di accogliere i migranti, anche se dice certo alcuni cambiamenti vanno introdotti, non possiamo accogliere tutti. La stessa, anche il Guardian ha queste foto impressionanti delle autostrade sott'acqua di Houston, dei cavalcavia sott'acqua. E poi, per quanto riguarda invece la politica americana e in particolare la parte di Trump, cioè il partito repubblicano, un approfondimento su Rex Tillerson, che è il Secretary of State, cioè l'equivalente del nostro ministro degli esteri, che ieri ha un po' preso le distanze da Donald Trump, ma adesso vedremo se l'amministrazione, come sarebbe giusto che fosse, secondo me, si ricompatterà durante questa emergenza, che deve avere la priorità, l'emergenza del Texas. E Rex Tillerson appunto ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Donald Trump fatte dopo i fatti terribili di Charlottesville, che hanno riaperto il dibattito sulla questione razziale mai sopita negli Stati Uniti. Vi dicevo, a 30 secondi pausa sul traffico, vi ricordo solo l'infografica, l'infodata del lunedì, che così tanto mi ha affascinato, a pagina 7 del Sole 24 Ore sull'università: in testa i dottori in economia, in calo gli architetti, mentre sulla copertina del dorso di Imprese e Territori, quindi pagina 9, tutta anche qui corredata da una bellissima infografica, produttività, welfare in un contratto su 3. Ci fermiamo però un attimo per la pausa sul traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie ancora a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, e a Bruno Mazzilli, che non perde occasione per, secondo lui, cogliermi in fallo o criticarmi, questa volta sugli outlet. Nell'ultimo messaggio mi chiamava sciocca, sciocchina, oggi invece mi dice di informarmi, perché il 90% della merce venduta negli outlet è fatta apposta per gli outlet. Signor Bruno Mazzilli, io per lavoro seguo questo settore e o tutte le persone con cui parlo mi raccontano delle bugie e lo escludo, oppure non è così. Ci saranno sicuramente una parte dei prodotti che sono fatti per gli outlet, ma la maggior parte, ed è proprio questo il motivo per i quali anche i grandi marchi accettano, anzi sono contenti di aprire negozi negli outlet, è per smaltire le collezioni degli anni precedenti, smaltire tra virgolette, perché ogni prodotto ha un suo valore, semplicemente non è più di moda, non è più attuale, e ci sono persone che a questo danno un valore, altre che gliene danno meno. Chiusa la parentesi. Pagina 12 di Imprese e Territori, un interessantissimo approfondimento di Marika Gervasio, che è la nostra esperta del settore beauty, sui dati, in base ai dati di Cosmetica Italia, che è l'associazione che riunisce le imprese cosmetiche italiane. Pensate, in 50 anni i consumi di cosmetici in Italia sono passati da 25 milioni a 4,3 miliardi. Non è soltanto questione di volersi sentire più belli, naturalmente, ma anche di disponibilità economica, ma anche di disponibilità di prodotti, e soprattutto si vede anche come dal cambiamento dei consumi si possono anche capire alcuni dei cambiamenti che hanno avuto la nostra società. L'agenda del professionista oggi è arrivata alla 20ª puntata ed è tutta dedicata allo smart working, ma soprattutto per quanto riguarda il cosiddetto, in italiano lo chiamiamo lavoro agile, ma la traduzione letterale sarebbe lavoro intelligente, cioè sostanzialmente lavorare da casa per una percentuale variabile del proprio tempo lavorativo, e quindi qui tutte le nuove regole. Dell'esperto risponde, vi abbiamo detto, allegato al settimanale di consulenza ai lettori, che questa settimana in particolare si concentra sulle tutele alle vacanze. E adesso veniamo alla questione Sicilia. Sono le prime elezioni che ci daranno un'indicazione, probabilmente, anche se sono elezioni regionali, su quello che poi potrebbe succedere alle politiche della primavera. Sicilia, Berlusconi vedrà Meloni e Salvini, si rafforza Musumeci, quindi si va verso appunto la candidatura per il centrodestra di Nello Musumeci, di cui abbiamo letto un'intervista sabato e non mi ricordo su che giornale, o La Verità o Il Giornale. All'inizio si pensava che Berlusconi non lo avrebbe sostenuto perché il suo candidato era un altro, probabilmente invece sarà così. Questo è veramente subito sotto l'articolo sulla Sicilia, c'è un articolo di Melania Di Giacomo sulle province, che qui mi viene da evocare Alessandro con il suo conto delle settimane decisive per l'approvazione dell'abolizione delle province. Un caso, illustrato tra l'altro da una foto tratta dal film Quo Vado di Checco Zalone, che era un po' la parodia amarissima, per quanto divertente, di chi lavora nella pubblica amministrazione. Noi con lo stipendio ma senza lavorare, ex agente provinciale, il paradosso pugliese. E poi uno schema che fa capire come con l'abolizione delle province ci siano anche naturalmente tantissimi dipendenti in esubero. Comunque ricordiamo che l'abolizione delle province per ora non è ancora stata attuata. Allora, abbiamo parlato di centrodestra e per par condicio parliamo di centrosinistra. A pagina 11 del Corriere della Sera, Tommaso Labate, Pisapia e il gelo con i bersaniani, serve un centrosinistra ampio. Rottura anche in Sicilia, lite dopo la scelta del movimento di Bersani su Claudio Fava. Ma campo progressista in Sicilia risponde, mai con Alfano. Non so, loro non hanno, il centrodestra si avvia ad avere un candidato, il centrosinistra parrebbe di no. Una bella storia dal Pakistan, la racconta Francesco Battistini, che racconta come questa ragazza pakistana, Nashra Balagambwala, abbia inventato un gioco che in qualche modo serve, come a volte spesso si fa con i giochi, per spiegare qualche cosa, ma anche per sensibilizzare su un tema. E da qui questo che viene chiamato il risico delle ragazze, il premio viene dato a chi a questo gioco riesce a evitare le nozze forzate, che sono una sciagura ancora in Pakistan e in tantissimi altri paesi. E questo gioco di società l'ha creato proprio per contrastare i matrimoni combinati, per ora è in vendita soltanto online. Mi sono ispirata, ha raccontato questa ragazza Francesco Battistini, a quel che succede nella cerchia dei miei parenti, ma mi hanno dato consigli anche gli amici maschi. Molti ragazzi mi sostengono, ma sul web ho ricevuto anche insulti da fondamentalisti e tradizionalisti. Il lunedì il Corriere della Sera ha un supplemento che è l'economia, che ha cambiato un po' grafica da qualche mese. In prima pagina c'è sempre una sola foto che fa riferimento a un'intervista all'interno. Questa settimana è Francesco Trapani, che per molti anni è stato amministratore delegato di Bulgari, poi ha lasciato Bulgari ed è diventato responsabile della divisione orologi e gioielli di LVMH, che Bulgari l'aveva comprata, poi è uscito anche da LVMH, adesso è azionista e consigliere di Tiffany, e il suo titolo è Tiffany sempre più italiana. Infatti molti pensano che sia anche stata una sua scelta quella di o comunque abbia lui proposto il nome di un italiano, Alessandro Bogliolo, che dal 2 ottobre entrerà in carica ufficialmente come amministratore delegato di Tiffany, che è uno dei più importanti marchi di gioielli al mondo. Vi leggo l'ultima domanda che gli fa Maria Silvia Sacchi, che trovo molto interessante, non le pesa non essere più in prima linea, e Francesco Trapani risponde: mi sono arrivate anche richieste di fare il CEO, cioè il Chief Executive Officer, l'amministratore legato, ma non è più il mio lavoro. Sono molto interessato invece a essere di supporto per il management, come faccio da Tiffany o da io in altre aziende. Ho compiuto 60 anni a marzo. Quello del CEO è un lavoro molto duro, non a caso nelle aziende americane quando hai 62-63 anni non sei più credibile. Una persona che vuole iniziare una nuova avventura a 60 anni è meglio che faccia il presidente o un lavoro di supporto, cioè dando valore a una cosa che forse non ha né valore né prezzo, che è l'esperienza. Pagina 16 di Repubblica, c'è un'inchiesta sul... o meglio, un articolo che racconta a che punto è questa inchiesta sugli stupratori, e non sono ancora stati catturati, ma vi segnalo anche il racconto di molte persone che o lavorano a Rimini o comunque sono a Rimini in vacanza, e che spiegano, che danno a tutti il consiglio di notte di stare molto attenti. Sì, però se non si va in un luogo pericoloso non si corrono pericoli. Il problema è che il luogo non dovrebbe essere pericoloso, nella fattispecie una spiaggia di Rimini. La giungla delle partecipate della Stampa, ve l'ho detto, pagine 12 e 13, e vi segnalo un articolo di Gianluca Nicoletti, naturalmente per chi ascolta Radio 24 non ha bisogno di presentazioni, che scrive per la Stampa e parla di questa manifestazione che abbiamo segnalato nei giorni scorsi, che si terrà a Gavirate sul lago di Varese a partire dal 31 di agosto, dedicata all'Alzheimer. L'orgoglio di essere malati. Quanti di voi scuoteranno il capo leggendo che a Gavirate qualcuno sta organizzando un Alzheimer Fest? E già, penserete che con certe disgrazie non si scherza. Invece c'è chi ha deciso che per un problema di salute che lambisce comunque 3 milioni di persone nel nostro paese vale la pena di alzare i bicchieri, fare musica e cantare. E vi leggo l'ultima parte. Anche se non c'è niente da ridere, è sacrosanto che tutti i diversamente scoppiati di salute d'Italia comincino a pretendere di stare in mezzo alla gente, non solo per essere compatiti, ma per non essere trattati da clandestini e farsi finalmente riconoscere il loro ius soli. Altre segnalazioni, molto interessante da macro, la prima pagina, il supplemento culturale del Messaggero, un approfondimento sul Kazakistan, perché il 10 settembre si chiude l'Expo che ha fatto tappa in Kazakistan, vetrina ospitata ad Astana, la capitale della Kazakistan, con 113 paesi, costata 3 miliardi di dollari, ma risultati sotto le aspettative, e una grande quantità di proposte da Cina e Europa, con anche uno stand italiano grande, insomma, rispetto anche ad altri. Da Libero, dicevo, poco spazio, e mi ha stupito negativamente questo, alla manifestazione che c'è stata ieri a Barcellona. Invece Libero, a pagina 4, ha fatto una foto, tra l'altro sono foto veramente impressionanti, perché c'erano milioni di persone, occupavano tutta la strada, quindi secondo me è un'occasione perduta, se non altro almeno per pubblicare la foto. Un ritratto di Gianluca, anzi un'intervista di Gianluca Veneziani a Antonino Zichichi, scienziato molto controverso, perché ha delle teorie che non tutti condividono nella comunità scientifica. È stato assessore alla cultura e dice: la politica in Sicilia è più complessa della fisica. Crocetta non sapevo neanche chi fosse, non ha saputo voltare pagina. Alfano, bisogna pensare al bene della regione. E credo, purtroppo, sì, abbiamo esaurito il nostro tempo. Grazie a Peter Bescapè in regia, avevo messo da parte tante altre cose, ma magari domani cercherò di andare un po' più svelta sulle prime pagine. Ancora un buon lunedì e una buona settimana da Giulia Crivelli.